Ars non è più Ars. Ars dopo 5 anni di ministero. Il 7 maggio 1820, un mese dopo la nomina di Don Vianney alla parrocchia di Salles, nel Beaujolais, Don Renard, diacono al Sant'Ireneo di Lione, ignorando ancora che quella nomina non era stata mandata ad effetto, scriveva alla castellana di Ars, sua benefattrice: «Ho sentito con molto dolore e sorpresa che avete perduto il vostro santo curato. La provvidenza l'aveva dato alla parrocchia per far rifiorire la pietà. Mi auguro di tutto cuore che sia sostituita da un sacerdote capace di mantenere il fervore che regna ad Ars». Questa testimonianza è preziosa. Ars poteva già essere considerata come una parrocchia fervente ed erano solo 2 anni che c'era Don Vianney. 3 anni e mezzo più tardi, il 7 novembre 1823, in una lettera indirizzata alla signora vedova Fayot di Noé, il curato d'Ars esce egli stesso in un grido di trionfo. «Io sono», egli scrive, «in una piccola parrocchia piena di religiosità che serve il Signore con tutto il cuore». Scrivendo quelle righe alla sua buona madre, Don Vianney non poteva avere l'intenzione di darle un'idea assolutamente esatta della situazione, perché a fianco di esimie virtù c'erano ancora ad Ars alcune miserie e senza dubbio egli non si sarebbe ancora arrischiato in pubblico davanti ai suoi parrocchiani a fare un apprezzamento così ottimistico. Ma intanto esso sottolinea i progressi già realizzati. Ars aveva visibilmente mutato volto. L'insieme del paese era passato dal libertinaggio alla virtù, dalla semplice pietà a un consolante fervore. Certamente era stato d'aiuto un recente pellegrinaggio alla Madonna di Fourvière. I nostri vecchi amavano queste devote visite a qualche santuario più o meno celebre. Prima della rivoluzione, la gente di Ars si recava a Lione ogni anno per pregare la Madonna nella sua antica cappella. Don Vianney pensò di rimettere in onore tale usanza. Ascoltiamo Guglielmo Villiers, un bravo lavoratore che allora aveva 24 anni, il quale ci racconta l'edificante viaggio. Nel 1823, il 6 agosto, giorno della nostra festa patronale, il nostro buon curato ci condusse alla Madonna di Fourvière. Posso parlare di quel pellegrinaggio perché anch'io vi partecipai. Con quell'atto solenne Don Vianney voleva testimoniare la nostra riconoscenza alla Madonna per i preziosi ornamenti offerti dal signor Visconte di Ars. Ci accompagnavano 2 parroci dei paesi vicini, Don Martin, parroco di Savigné, e Don Robert, parroco di Saint-Euphémie. Quest'ultimo aveva circa 80 anni. Partimmo da casa dopo mezzanotte. Penso che ci fossero i 2/3 della parrocchia in quel pellegrinaggio. Andammo in processione fino a Trevaux, preceduti dalle nostre bandiere, cantando inni e recitando il rosario. Sul far del giorno eravamo a Trevaux. Ci imbarcammo poi su 2 grandi barche trainate da cavalli. Prendemmo terra a Lione, un po' al di sopra di Vez, e di là ci dirigemmo in processione su Fourvière. Il curato d'Ars celebrò la Santa Messa, parecchi di noi ricevettero la Santa Comunione. Tornammo poi facendo la stessa strada. La gente usciva a vedere il nostro passaggio e ci manifestava la propria meraviglia. Quando raggiungemmo le 2 imbarcazioni, Don Vianney si imbarcò per primo con un certo numero dei suoi parrocchiani, ma siccome gli altri tardavano un poco ad arrivare, i barcaioli, uomini rozzi e grossolani, si misero ad imprecare. Subito il curato sbarcò con alcune persone che lo seguirono e se ne tornò a piedi fino a Neville. Noi compimmo il viaggio sulla Saône e li raggiungemmo là alcune ore più tardi. Da Neville tornammo ad Ars in processione. Quando passavamo davanti a qualche chiesa suonavano le campane, giungendo a casa che era notte fonda. Da questo vivace racconto non possiamo affrettatamente concludere che tutti gli abitanti di Ars sono ormai perfetti cristiani. Alcuni non praticano regolarmente. Nel tempo dei grandi lavori non ci si farà scrupolo ancora per parecchi anni a voltare il fieno di domenica o a portare al coperto dopo i vespri domenicali il raccolto. Soprattutto perdura quella frenesia del ballo che sembra essere penetrata nel sangue di quella gioventù contadina. Ma grazie a Dio il giubileo del 1826 scuoterà parecchi esitanti. Una missione tenuta nel 1827 sarà una data particolarmente felice nei fasti della parrocchia. «Non si conosceranno mai abbastanza», scrive Caterina Lassagne, «le grazie di conversione ottenuto dal signor curato con le sue preghiere, specialmente con la celebrazione del Santo Sacrificio. Si era operata una rivoluzione nei cuori. La grazia era talmente forte che ben pochi potevano resistere. Quasi tutti lavoravano con serio impegno per uscire dal peccato. Il rispetto umano era bandito. Si aveva vergogna a non fare il bene e a non praticare la propria religione. Si vedevano uomini seri e pensosi. Se ne udivano alcuni, che non si erano accostati alla confessione da lungo tempo, dire ad alta voce «Mi voglio confessare». Tutti erano animati da sante disposizioni. Il signor curato in una istruzione disse loro queste parole «Fratelli miei, Ars non è più Ars». Ho confessato e predicato in giubilei ed in missioni, ma qui è diverso. Si era nel 1827. Tuttavia, in certe famiglie non era completamente distrutta la cattiveria. Prova ne siano i 7 parrocchiani che nel 1830 dicono brutalmente al loro santo curato che non gli rimane che andarsene. La loro protesta, in verità, rimase senza eco, dato che il resto della popolazione disapprovò il loro ridicolo passo. Ars non si sarebbe rassegnata a restare senza sacerdote e ci teneva a conservare Don Vianney. Nel 1832, quando Giovanni Picard aprì in paese la sua bottega di fabbro ferraio, trovò, secondo la sua espressione, molto mutato l'aspetto di Ars. Un tempo aveva conosciuto quella parrocchia che assomigliava a quelle vicine. Ora, grazie al suo curato, che già passava per santo, Ars era irriconoscibile. Quella parrocchia era, senza confronto possibile, al di sopra di tutte le altre, isola di santità, in cui tante anime sarebbe venuto a cercare la risurrezione ed il segreto d'una vita migliore. Santificazione del lavoro e abitudini cristiane. Ora, durante i giorni di lavoro, poteva accadere di incontrare un giovane che precedeva i suoi cavalli con il rosario in mano. La sera suonava la campana per la preghiera e tutti quelli che potevano recarsi in chiesa lasciavano le case, mentre quelli che non potevano si inginocchiavano in casa, davanti a qualche immagine sacra. Tutte le case in cui era rimasto qualcuno, in quell'ora di pace, sembravano un prolungamento della chiesa. Nella campagna, all'ingresso dei poderi, si collocavano piccole croci, formate da 2 rami legati insieme o si issavano al tempo della mietitura sul mucchio dei covoni. I lavoratori si stimolavano al lavoro, intonando ingenue canzoni. Sembravano più sereni, non si udivano ritornelli triviali, parole sconvenienti o bestemmie. «Ho passeggiato tra i campi al tempo del raccolto», diceva la signorina Alice di Belvei, «e non ho mai udito una sola bestemmia. Lo feci notare ad un contadino che mi rispose, «Non siamo meglio degli altri, ma ci vergogneremmo troppo a commettere simili colpe vicino ad un santo». La prima sera che passammo nel paese, racconta un viaggiatore venuto da Lione, fummo testimoni di una scena che ci diede l'idea esatta dell'influenza del curato d'Ars. 3 uomini trascinavano con 2 cavalli un grosso tronco d'albero. Giunsero vicino ad un ruscello, il Von Blen, tentarono di farlo varcare al loro traino. Uno dei cavalli si impennò, fece un passo falso e cadde in una posizione pericolosa. Gli uomini si precipitarono e aiutarono il cavallo ad alzarsi. Particolare straordinario che ci lasciò assai sorpresi. Quei 3 contadini non provarono il minimo impeto di collera. Non si scambiarono nessun rimprovero, non percossero la povera bestia e non lanciarono neanche una bestemmia. Tanto grande ritegno in contadini minacciati nei loro interessi ci era sconosciuto. Il curato d'Ars aveva raccomandato spesso ai suoi parrocchiani di recitare all'ora dei pasti il benedicite e il ringraziamento, e ben pochi vi mancavano. aveva raccomandato di recitare senza rispetto umano dovunque si trovassero l'Angelus 3 volte al giorno. Quando i 3 colpi di campana si diffondevano sulla valle e salivano verso le umili colline, subito si fermava il lavoro. Gli uomini si scoprivano il capo, le donne giungevano le mani e tutti recitavano le preghiere prescritte. La stessa cosa accadeva per i sentieri e per le strade del paese. Inoltre, siccome Don Vianney aveva fatto mettere al campanile un orologio con un quadrante ben visibile, quando suonavano le ore, molti abitanti, sull'esempio del loro curato, le benedicevano, cioè interrompevano le loro occupazioni per recitare un'Ave Maria. In primavera c'era l'abitudine di piantare croci benedette per ottenere per i meriti di Gesù Cristo la preservazione dalle intemperie cui sono esposti i raccolti. Quando i mietitori, falciando il grano, scoprivano una di queste croci, si inginocchiavano e recitavano un Pater e un Ave, o intonavano l'inno O Crux Ave. Per questa abitudine qualche volta erano presi in giro dai contadini dei dintorni. «Se ascoltate il vostro prete», dicevano sogghignando, «vi farà diventare tutti frati». Ma quella brava gente non si impressionava per gli scherni e rispondeva: «Il nostro curato è un santo e noi gli dobbiamo dare ascolto». Così era mutato anche l'aspetto esterno di Ars. Ciò che subito ci colpì, racconta ancora il pellegrino lionese, fu la calma e la tranquillità di quei luoghi. Là sembrava che si respirasse un'aria più dolce che altrove. Gli abitanti ci salutavano con gentilezza, ci davano spiegazioni con cortesia. L'ospitalità cristiana e le relazioni fraterne sembravano abitudini di tutti. Notammo che le case erano ornate di statue della Madonna o di immagini di santi. Don Vianney aveva continuato a visitare quelle case di quanto in quanto per radicarvi più profondamente le abitudini religiose. Affiatato ora con tutta la sua gente, arrivava all'improvviso durante il pasto di mezzogiorno e dal di fuori chiamava per nome il capofamiglia. Venerato come un santo vivente e raccolto dovunque con gioiosa venerazione. In piedi, appoggiato al muro o allo spigolo di qualche mobile, parlava ora all'uno ora all'altro, interessandosi della salute dei genitori o dei figli, dei lavori, dei raccolti, ma facendo scivolare subito nel discorso, senza lasciare il suo tono familiare, la parola pia che dà ali e ideali alle nostre povere occupazioni terrene. Così faceva con discrezione l'esame di coscienza della famiglia. Se erano fedeli alla preghiera, alla messa, al riposo festivo, se i ragazzi erano obbedienti, se studiavano il catechismo. Il curato si occupava particolarmente delle giovani domestiche, ragazze timide venute dalle parrocchie vicine e che egli voleva fossero trattate come figlie. Anch'esse dovevano essere istruite nella religione, dovevano essere mandate la domenica alla messa e ai vespri. Da noi, dice Caterina Lassagne, era per tutti un piacere riceverlo. Qualche volta ha mangiato con mio padre, aggiunge Antonio Mandì, figlio del vecchio sindaco, ma mai dietro invito. Arrivava durante il nostro pasto e vi prendeva parte serenamente. Accettava una patata e non rifiuteva di gustare un sorso di vino, che beveva alla salute di tutta la famiglia. Fatte in questo modo, quelle visite avevano un immenso vantaggio. Dal pulpito doveva parlare con tutti i fedeli riuniti, mentre qui, nell'intimità di ogni famiglia, il curato d'Ars poteva dare i consigli e anche i biasimi appropriati. Quando la cura delle anime assorbì tutti i momenti di Don Vianney, queste apparizioni nelle famiglie divennero sempre più rade e cessarono poi del tutto. Fu motivo di grande rincrescimento per tutte le famiglie di Ars. Monsignor Convert, nominato parroco ad Ars nel luglio 1889, ebbe la fortuna di conoscere bene gli ultimi sopravvissuti di quelle famiglie onorate dalle visite di un santo. Il loro volto, scrive, portava un'impronta di santità che raramente abbiamo trovato così palese. La calma, la serenità, una specie di beatitudine radiosa permettevano di distinguere tra mille. Un santo aveva trasformato i loro padri e le loro madri in modelli di virtù domestiche. Quegli agricoltori, per la maggior parte agiati, perché erano laboriosi ed economi, pur essendo caritatevoli verso i poveri, formavano l'ammirazione dei forestieri. Le loro riflessioni erano piene di buonsenso. Nobilitati dalla grazia e dalla fede, avevano una propria gentilezza, semplice, ingenua, unita come nei patriarchi d'un tempo a una distinzione e a una delicatezza poco comuni. La loro grande educatrice era stata la religione. Caterina Lassagne, all'età di 80 anni, amava richiamare i suoi ricordi d'infanzia. Vi vedeva campeggiare due figure, rimaste care più di tutte, quella del suo santo curato e quella di sua madre. Claudina Lassagne, quando nel marzo 1818 si mise sotto la direzione di Don Vianney, era una cristiana abbastanza buona. Sua figlia maggiore, ragazza avveduta quantunque passasse più tempo dietro le bestie nei campi che sui banchi della scuola, constatò un rapido cambiamento nelle abitudini di sua madre. Prima, racconta Caterina, non aveva mai finito di cincischiarmi e di pettinarmi. Le occorreva un sacco di tempo per la mia toeletta. Poche settimane appena dopo la venuta di Don Vianney ad Ars, tutto era cambiato. In 4:48 era già pronta e s'andava in chiesa. Una volta in chiesa, Claudina si perdeva nella preghiera come il pesce nell'acqua. Sembrava che per lei non esistesse più il tempo. «Mamma, andiamo!» piagnucolava finalmente Maria, la più piccola delle figlie, tirandole la veste. Ma lei non si muoveva, si sarebbe detto che non sentisse nulla. Per tutta la quaresima non permise mai ai suoi figli di prendere qualche cosa fuori dai pasti. Quando un indulto della Santa Sede autorizzò l'uso del grasso il sabato, Claudina continuò a far praticare in quel giorno l'astinenza a tutta la sua famiglia. «Ma se è permesso mangiare la carne di sabato», le disse un giorno una delle figlie. «È forse comandato?» replicò lei. «No, mamma. E allora continua a far penitenza». La sera, quell'ammirevole cristiana, che non aveva cessato di pregare anche durante il lavoro, riuniva in preghiera tutta la famiglia. Prima di addormentarsi e andava a letto per ultima, si curvava sul capezzale di Caterina e le chiedeva dolcemente: «Hai detto il visita?» Visita è la prima parola con cui comincia l'ultima orazione della preghiera liturgica della sera, con pietà. La profonda onestà degli abitanti di Ars era divenuta proverbiale, regolava tutte le loro relazioni. Un tempo, i discorsi tanto realistici di Don Vianney ne fanno fede, in fatto di giustizia non si badava troppo al sottile. Facevano, dicevano essi, come tutti gli altri. Nelle vendite dissimulavano abilmente i difetti del loro bestiame. Vendevano come fresco il burro rancido, le uova covate. Il tessitore teneva il buon filo per sé e lo sostituiva con quello mediocre. La filatrice metteva la canapa in un posto umido per aumentare il peso. Tornavano dai campi col grembiule pieno d'erba o di rape rubate. I genitori, quando vedevano i ragazzi tornare a casa a mani piene, ridevano. «E cosa da poco!» esclamavano. Ora, invece, Ars era trasfigurato e la gente si sarebbe fatto scrupolo del minimo furto. Un giorno il piccolo Benedetto Trev, che divenuto vecchio raccontò l'episodio a Monsignor Convert, prese una pera dal banco di una venditrice, quindi senza pensarci tanto si diresse a casa per mangiarsela. Ma non ne ebbe il tempo. Sua madre volle sapere dove veniva quel frutto. Benedetto fu costretto a confessare il suo misfatto ed ella allora gli legò le mani dietro la schiena e lo condusse a suon di frustate fino alla porta della venditrice. Solo là lo slegò e il ragazzo dovette restituire la pera rubata e chiedere perdono. Amore del curato d'Ars per i suoi parrocchiani. Quantunque Don Vianney accogliesse tutti con eguale bontà, amò sempre con particolare predilezione i suoi parrocchiani. Quando le confessioni lo trattennero in chiesa tutto il giorno, non poté più vedere i suoi cari figliuoli come un tempo. Ma mentre i pellegrini dovevano aspettare giorni interi per parlargli qualche minuto, ogni sabato riservava determinate ore per quelli di Ars. Gli altri giorni, quando Don Vianney li scorgeva, li faceva chiamare subito, tanto che la gente del paese che voleva prolungare la preparazione era costretta a nascondersi. Fino alla fine diede loro prova di una dedizione straordinaria. Anche nel più grande affluzzo di pellegrini lasciava tutto per recarsi presso i loro malati. Giorno e notte era al loro servizio. Verso le 11 di sera, Maddalena Scipiot viene a cercarlo perché ha la mamma gravemente ammalata. Lo chiama 2 o 3 volte, egli si sveglia, socchiude la finestra. Sì, risponde, vengo subito, ed accorre. La signora Scipiot si scusa di averlo disturbato. Oh no, questo non è niente, replica, io non ho ancora dato il mio sangue per voi. Nell'inverno del 1823, durante il giubileo di Trevaux, tornò una sera in parrocchia, nonostante il freddo e la neve, per visitare una donna ammalata. Giunse sfinito, coperto di brina, tutto intirizzito. Nulla lo fermava quando si trattava dell'anima dei suoi. Ma che gioia anche per il suo cuore constatare la loro docilità e la loro bontà. Ad Ars, Don Vianney, amato come un padre, era re. La sua influenza si estendeva a tutti e a tutto. Sia in cattedra che in confessionale aveva proclamato il rigore e le dolcezze delle sante leggi del matrimonio. L'avevano ascoltato e compreso. Sulle famiglie del paese era discesa la benedizione divina. Come ai tempi biblici, la sposa era come vite feconda nella sua casa e i figli come germogli d'olivo attorno alla tavola del padre. Di fronte alla chiesa abitavano i Sinier, che avevano 10 figli. Il signor Mandù ne aveva 12, come pure il conte e la contessa di Garez, proprietari del castello. Le famiglie Pertinan e Fleury Trèves ne avevano 15. La popolazione di Ars, durante il ministero di Don Vianney, divenne più del doppio. Solo dal 1818 al 1824 ci furono nella piccola parrocchia 98 battesimi contro 40 sepolture. I padri e le madri conservavano sui loro figli, anche se cresciuti, un'autorità considerevole e non permettevano che ad essa si attentasse. Ai ragazzi e alle ragazze era proibito andare senza motivo per strada o restare in casa oziosi. Quando le ragazze tornavano da scuola, racconta Annetta Scipiot, cresciuta in questo regime, invece di lasciarle divertire, venivano occupate a far la calza o in lavori domestici. Se erano costrette a uscire, al ritorno i genitori chiedevano come si erano comportate, con chi erano state. La domenica le ragazze uscivano soltanto con la mamma. Qualche volta Gianna Sinier, che non si sentiva la vocazione della monaca di clausura, sospirava. «Oggi, dopo vespro, andiamo a fare una passeggiata. Sono stufa di star sempre in rinchiusa». E la mamma l'accompagnava per i sentieri dei campi. Una volta, tuttavia, eludendo la vigilanza materna, Gianna si lasciò trascinare da una giovane con le signorine Scipiot fino ai boschi della Papesse. Avrebbero chiacchierato e raccolto nocciole. Ad un tratto echeggiano alle 2 estremità del bosco dei richiami. Erano i giovani di Miserie che venivano incontro a quelli di Ars e da una parte e dall'altra si lanciavano il segnale convenuto. Le raccoglitrici di nocciole se la diedero a gambe, come se, diceva Gianna Sinier, tutti i serpenti del bosco le avessero rincorse e furono guarite dalla loro disobbedienza. L'intensa cura data allora alle anime non sembra abbia aumentato in modo straordinario in paese le vocazioni sacerdotali. Don Vianney, prima di spingere qualcuno verso l'altare o il chiostro, voleva segni il più possibile sicuri. Un giorno del 1824, incontrando sulla piazza uno dei suoi giovani parrocchiani, la cui pietà gli era parsa indubbiamente notevole, gli chiese: «Vuoi andare in seminario, ragazzo mio?» «Oh, signor curato, bisogna assolutamente che aiuti mio padre, non lo posso lasciare». Il curato d'Ars aveva sperato per il ragazzo un avvenire migliore, ma stette a quella risposta. «In tal caso fai bene», concluse, «rimani». Al contrario, lo si vede consigliare l'entrata immediata in convento o in seminario a persone dubbiose.